Vago respiro. Pieno di sterpi. Dal viaggiare. Così lontano. Con vago respiro, pieno di sterpi, mi nutro di terra. Vago percorso qualche pensiero vago percorso solo qualche pensiero.